Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari radioascoltatori. Ebbene, quando ho cominciato così a documentarmi su questa trasmissione sull'olio, che già avevo fatto anni fa, mi ero già occupato di questo argomento appunto anni fa, non credevo che il quadro fosse addirittura peggiorato rispetto a 3-4 anni fa. Sto parlando di truffe, sto parlando di adulterazioni. Bene, si dice sempre che il cibo è un qualcosa di felice, di dolce, in questo caso veramente molto molto amaro occuparsi di un argomento come questo, perché l'olio, si sa, veramente è un ben di Dio dal punto di vista dell'alimentazione, e occuparsene dal punto di vista appunto degli scandali o delle agromafie è veramente molto ma molto triste. Ma questa è la realtà non solo italiana, perché poi spazieremo anche con un giornalista americano anche in altri campi. Ci renderemo conto che l'olio veramente è una truffa un po' ovunque, chissà perché, probabilmente perché non capisco se è facile da adulterare, da truffare, oppure se i controlli sono veramente scadenti. Ma abbiamo una serie anche di ricerche molto documentate e ci baseremo molto su questo. Cominciamo con il secondo rapporto delle agromafie, che è stato presentato da Leorispes assieme alla Coldiretti. Abbiamo con noi il presidente Gian Maria Fara. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi. Allora, prima di dare la parola a lei, voglio leggere 4 righe, perché secondo me sono abbastanza significative, scritte nel rapporto. I consumatori sono vittime di vere e proprie truffe alimentari. Dietro al paravento di marchi sedicenti italiani ed etichette fuorvianti vengono commercializzati oli di oliva di bassissima qualità, spesso ottenuti attraverso la raffinazione degli oli importanti. Cioè a dire, si importano oli tunisini e greci, poi vengono mescolati con quelli italiani e successivamente deodorati. E questo è il punto, uno dei punti base. E, presidente Gian Maria Fara, è veramente così? È una situazione, un quadro molto nero quello dell'olio? Sì, sì, assolutamente. La vostra descrizione corrisponde alla realtà. Pensi che noi, che siamo grandi produttori di olio, siamo anche i primi importatori mondiali di olio, il che tradotto in termini vuol dire che acquistiamo olio dal Marocco, dall'Algeria, dalla Tunisia, dalla Turchia, dalla Grecia e soprattutto ormai dalla Spagna, e olio di scarsissima qualità rispetto al nostro. E quest'olio viene evidentemente modificato, rettificato, ricolorato e poi messo in commercio, spesso contrabbandato come olio italiano. Ecco, voglio dare il numero verde perché sicuramente molti ascoltatori saranno interessati a intervenire. 800 24 00 24 oppure sms 349 238 6666. Lei ha detto colorato, ecco, cosa succede? Tanto la qualità dell'olio è garantita dal metodo di raccolta e dal metodo di molitura, mentre noi siamo abituati a raccogliere e a molire rapidamente, l'olio che arriva da paesi stranieri, da paesi esteri, è prodotto da olive che ormai sono avviate più verso un processo di macerazione che altro. Sono olive raccolte settimane e settimane prima in maniera non corretta e quindi producono un olio di scarsissima qualità. Poi naturalmente i nostri cultivar sono diversi da quelli per esempio utilizzati in Spagna. Sono cultivar che danno una grandissima produzione, ma una produzione di scarsissima qualità. Ecco, senta, ma questo commercio, diciamo, illegale, ecco, i controlli, volevo chiederle appunto, i controlli sono carenti oppure veramente qui siamo a livello di delinquenza molto raffinata? No, guardi, i controlli in Italia non sono carenti, i controlli in Italia sono molto serrati e molto severi, anche perché abbiamo diverse forze di polizia che su fronti diversi si occupano del controllo della qualità delle produzioni che arrivano in Italia. Noi siamo a conoscenza di diversi scandali e di diversi problemi proprio perché i controlli nel nostro paese, a differenza che nel resto d'Europa, sono controlli molto severi. C'è la Guardia di Finanza impegnata sull'analisi della provenienza, il Corpo Forestale dello Stato che cura particolarmente la qualità, i NAS dei Carabinieri che hanno evidentemente l'obiettivo di tutelare la salute. I controlli sono molto severi, il problema è un altro, il problema è che la normativa europea consente l'ingresso in Europa e in Italia soprattutto di una materia prima di qualità assolutamente scadente. La soluzione del problema sta nell'etichettatura, ma il tema dell'etichettatura è un tema che trova grandi ostilità in Europa. Beh, come al solito, insomma, Bruxelles. Aldo da Padova. Bene, in questo caso noi difendiamo la nostra produzione, mentre altri vogliono utilizzare il nostro brand, la nostra produzione, i nostri marchi per contrabbandare prodotti di scarsissima qualità. Beh, c'è un gruppo spagnolo che si è comprato mezzi marchi italiani e giustamente su quello ci sguazza. Bene, sentiamo Aldo da Padova, un radioascoltatore. Buongiorno Aldo. Buongiorno, io sono Aldo, titolare del ristorante Letizio delle Due Carrare in provincia di Padova. Bene. Volevo fare due brevissime considerazioni. Allora, è chiaro che noi in Italia importiamo tantissimo olio perché l'italiano notoriamente è un grande consumatore di oli di oliva, olio extravergine, olio di oliva, olio di salsa e quant'altro c'è. Un'altra considerazione, io che sono interessato perché avendo il ristorante devo anche avere dei prodotti in tavola, in cucina, che sono adatti alla mia clientela, perché noi per esempio è una vita che non usiamo la friggitrice in cucina, mai usata, e in ogni tavola del mio ristorante c'è una bottiglia di olio extravergine di oliva, o abruzzese, o ligure, oppure dei nostri coniugani, che è buonissimo il nostro olio. Bene. È certo che è un prezzo alto, però si deve fare così. Bene. Perché noi più delle volte andiamo su delle trattorie o dei ristoranti, chiediamo l'olio di oliva e ci danno una bottiglia che hanno là da 2 o 3 anni che ormai è andato. Beh, lei poi una parte di ragione forse ce l'ha, ma non sicuramente sul fatto che noi importiamo semplicemente perché siamo troppo consumatori di olio, quindi diciamo che ci sono molte cose da rivedere. Io credo che importiamo molto, per quello che ci ha spiegato Gianmaria Fara, che io ringrazio. Grazie a Gianmaria Fara, grazie, buongiorno e buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro. Arrivederci. Linea alla regia, torniamo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Allora, abbiamo cominciato a sentire che non tutto fila come l'olio, ma sentiamo un radioascoltatore, Giorgio da Milano. Buongiorno Giorgio. Sì, buongiorno, sono Giorgio da Milano. Sì. E chiamo per dire questo, vado da oltre 20 anni in vacanza in Puglia, a Manduria, e il mio vicino di casa ha un frantoio. Praticamente lui mette in vendita l'olio extravergine di oliva, fatto da lui, senza nessun passaggio, dai 4 ai 5 euro al litro. Sì. Mi sente? La sento benissimo, prego, sì, concluda. Sì, ecco. Perciò quando un consumatore va alla grande distribuzione, che purtroppo e l'olio costa meno di così, non è olio, è un'altra cosa, è rettificato, è colorato, è profumato, gliene fanno di tutti i colori. Caro Giorgio, lei mi ha preceduto di 30 secondi, comunque ricordo il numero verde 800 24 0024, sa perché? Perché ho in linea. Sì. Massimo Gargano, che è presidente dell'Unaprol, che è il più grosso consorzio olivicolo italiano, al quale volevo proprio chiedere questo. Ho letto recentemente una sua intervista dove diceva che non può essere un olio extravergine sotto i 3,53 euro. È così, Gargano? È assolutamente così. Diciamo che la forbice va dai 3,53 euro della regione Puglia, che è la regione dove c'è la maggior produzione olivicola di questo paese, per arrivare ai 5 euro in regione Lazio, fino a 5,20 euro, fino a superare i 5,86 euro. Ecco, questa è la forbice appunto nel nord. È chiaro che ha ragione l'amico Giorgio quando dice sullo scaffale trovo un olio che costa 2,99 euro, 3,10 euro, 3,20 euro. Di che si tratta? Ha ragione lui, è un olio lampante che è stato rettificato, subito un processo di lavorazione chimica e poi è stato riportato ad avere quelle percentuali di acido oleico che gli consentono di avere, no, il titolo, di fregiarsi del titolo di essere olio extravergine di oliva. Insomma, è una truffa bella e buona. Senta Gargano, ma come si fa per bloccare questa truffa? Ma guardi, come si fa? Intanto c'è una legge, si chiama legge salva olio, è una legge che è stata messa in campo, diciamo, un paio di anni fa da Coldiretti, una pro le simbola, è diventata l'unica legge di iniziativa parlamentare durante il governo Monti, è stata rallentata nella sua applicazione come al solito da una Unione Europea, insomma, che ogni tanto si ricorda di essere Unione Europea, molto più spesso è un'unione di banche, un'unione di paesi del nord, commercianti, quindi che hanno un altro approccio alle questioni. Questa querela a novembre terminerà, abbiamo la certezza che terminerà a nostro favore, perché l'Italia ha applicato in maniera rigida quelli che sono i dettami dell'Unione Europea, peraltro siamo europeisti convinti. È indubbio che da quel momento dovranno partire controlli, e controlli durissimi nei confronti di chi nella filiera non è serio. Purtroppo fanno non solo notizia, ma in qualche modo riescono a trascinare in una competizione sleale anche altri soggetti. Viceversa, non si può pensare che se lei va su uno scaffale della grande distribuzione oggi e lei trova da una parte la parola eticità da più parti. D'altra parte, ad esempio, questi amici della grande istituzione spesso dimenticano che un olio a 2,99 qualcosa di non etico ce l'ha, e non possono far finta di non vederlo, né i proprietari di questa grande distribuzione, né i loro buyer, che fanno una praticamente un'attività solo sul prezzo, mettendo a rischio anche la salute del proprio patrimonio, che è quello dei propri clienti. Sentiamo Lello da Sassari, un radioascoltatore, rimanga con noi Gargano. Sì, grazie, buongiorno. Prego. Io sono uno chef che da tanti anni promuovo l'olio d'oliva per l'extravergine per i piatti. Quindi dicevo, purtroppo il consumatore non ha la possibilità di capire quando un olio è buono oppure è trasformato in qualcosa, perché noi mettendo l'integame in padella riusciamo, attraverso degli odori particolari, a capire se l'olio è stato manomesso in qualche maniera. Purtroppo oggi ci sono dei sistemi, perché ad esempio c'è gente che riesce a trasformare l'olio diciamo così di girasole in olio d'oliva aggiungendo clorofille e altre cose. Il consumatore normale non può capirlo, non riesce. Senta Lello, io mi dispiace contraddirla su questo, che anni fa ho fatto anch'io, diciamo, il corso per pannellista di olio. Allora le posso dire che si possono identificare sicuramente i difetti dell'olio, i famosi 5 difetti, però distinguere un olio che è stato veramente lavorato, come abbiamo sentito prima, e deodorato, io non credo che si possa distinguere col sapore. Io penso sia molto molto difficile. Non so se Gargano è d'accordo con me oppure no. Guardi, io credo che intanto il nostro amico chef, che saluto, abbia tantissime ragioni, perché vede, lei, la risposta l'ha data lei ha fatto un corso da panelista, cioè lei si è informato, lei si ascrive a quei consumatori evoluti che sono sempre di più, ma che in qualche modo costituiscono ancora una minoranza, seppur importante. Cosa fare? Io credo che alla signora Maria o al signor Mario che vanno ad acquistare l'olio nella grande distribuzione, la prima cosa che devono fare è insospettirsi se c'è un prezzo troppo basso. Se lei va a comprare una Ferrari e gliela offrono a 20.000 euro, probabilmente gli viene il dubbio che quella non è una Ferrari. Primo elemento, quindi il prezzo. Secondo elemento, leggere, tentare di perdere del tempo, di dedicare del tempo alla lettura dell'etichetta, è un obbligo. E quindi lei leggerà se è un olio italiano, intanto, se è una miscela di oli comunitari o se è una miscela di oli comunitari ed extracomunitari, e si accorgerà che più l'olio è una miscela e più l'olio ha un prezzo più basso. Perché? Perché in queste triangolazioni Italia, Europa, bacino del Nord Africa, accade di tutto e forse di più. Altro elemento, ulteriore elemento, Mi dica. No, posso dire che recentemente proprio in un negozio anche abbastanza importante, ho trovato, lei sa benissimo che le etichettature che sono state varate ora non sono facilissime da leggere, tutto sommato, anche se sono potrebbero essere molto più chiare, ho trovato che ancora in giro ci sono delle etichettature che sicuramente non sono quelle a norma. Comunque credo che ci vorrà un po' di interromperla. Sì. Per darle due elementi, per dirle quanto è vero, il Presidente del Consiglio, il Presidente delle due Camere, Cameron, inglese, ha impugnato questa legge salvaolio dell'Italia su due argomenti, le dimensioni dell'etichetta, perché nella legge salvaolio italiana queste dimensioni vengono rese più grandi e vengono rese cromaticamente incompatibili con l'etichetta, nel senso che se lei me lo scrive in verde chiaro e l'etichetta in verde scuro si fa fatica a leggere, ed è stato impugnato questo come è stata impugnata la norma antirabbocco. Quindi ecco, sì, certo che l'Inghilterra è un paese produttrice di olio d'oliva, quindi la mia battuta ovviamente è ironica e giustamente. Domenico da Roma, un radioascoltatore, buongiorno Domenico. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Senta, io sono un esperto italiano di questioni di mercato internazionale. Allora, volevo spostare la discussione solo su una cosa. In tutto il mondo ci stanno bloccando le esportazioni di olio e di ieri la notizia che il governo di Taipei ha bloccato tutti gli oli italiani perché hanno trovato delle clorofille. Quindi il problema è che una volta il governo italiano aveva degli uffici e lì i suoi interlocutori informati che si chiamavano anticontraffazione, che tutelavano l'esportazione dell'olio, perché è vero che è importante quello che dite sul consumo, ma noi siamo grandi esportatori di olio. Certo, certo. E tutto quello che allora il governo italiano ha tagliato questi uffici, che erano 15 in tutto il mondo, soprattutto nei paesi esportatori, e quindi praticamente ora noi ci troviamo scoperti perché le autorità dei paesi stranieri che stanno bloccando quasi tutto l'export alimentare italiano con barriere non tariffarie, che sono proprio queste delle questioni organolettiche dei prodotti, sì, non abbiamo più gli uffici perché il governo ha tagliato i nostri uffici. Beh, all'estero. Che dire, diciamo. Peraltro. Sì, mi dica. No, dico che vuol dire, cioè, dico che purtroppo è così un po', dove ci muoviamo succede la stessa cosa, cioè Roma non interviene, però Bruxelles, lo so. No, no, ma io sono d'accordo con lei, dico solo che purtroppo facciamo un collaborato ovunque ci rigiriamo, specialmente sull'alimentare, volevo solo dire questo. La ringrazio Domenico perché ho tanti radioascoltatori, sentiamo Luca dalla provincia di Perugia, buongiorno Luca. Buongiorno, io volevo soltanto dire una cosa, era stata fatta una legge dall'Italia per diminuire la percentuale di alchili esteri, sì, all'interno, sì, dell'olio extravergine, sì, è stata bocciata dalla Comunità Europea. Esattamente. Se lei potesse parlare di questo, perché mi sembra che è proprio il nocciolo della questione. Io passo la palla a Gargano, però è un argomento molto tecnico, speriamo che Gargano in due parole riesca a spiegare. Gargano, lei. Non è stata bocciata, la legge entrerà in vigore entro il dicembre di quest'anno, è stata rallentata in alcuni punti, gli alchili esteri saranno entro quest'anno un argomento a disposizione dei controllori, quindi mi sento di rassicurare il nostro amico. È una legge dove appunto forse verrà data solo un po' di attenzione a quelle che sono state le richieste del governo inglese, suo presidente Cameron, appunto proprio relativamente soprattutto alla norma antirabbocco. Detto ciò, è evidente che c'è quella coalizione di truffaldini che in qualche modo porta dell'olio di palma arricchito di clorofilla e qualche aldeidi, magari anche con etichette altisonanti in Cina, li portano in Russia. Indubbiamente questo mette in crisi un sistema, mette in crisi una lealtà di mercato il sistema dei controlli italiani funziona, funziona davvero, deve essere semplicemente messo in condizione, no, di poter lavorare. Ecco perché è importantissimo che questa legge diventi immediatamente un patrimonio, io non dico dell'Italia, ma diventi un patrimonio dell'Europa, perché poi questo diventa un patrimonio dell'identità, diventa un qualcosa, no, che unisce veramente nei confronti dei consumatori soprattutto. Gargano, mi permetta di aggiungere una cosa a quello che lei sta dicendo, che l'olio di palma costa meno di 18 centesimi al litro e può diventare, diciamo, attraverso appunto le elaborazioni, può diventare un extravergine magari di qualche area vocata italiana. Sentiamo Livio da Milano, buongiorno Livio. Quanti. Volevo intervenire brevemente, visto che avete un ospite di un'associazione di cui si parlava prima, per il discorso, il rapporto tra il prezzo di vendita e la qualità dell'olio, sì, che poi si trova. Volevo capire le associazioni cosa fanno, perché io, che ritengo di essere un consumatore abbastanza attento, quando vado nella grande distribuzione e vedo un olio che costa 2 euro una bottiglia a litro, non lo compro. Però mi immagino che ci debba essere un controllo da parte delle associazioni che tutelano i produttori, quelli seri, che dovrebbero intervenire proprio alla fonte, presso la grande distribuzione, per cercare di capire che cosa sta vendendo, perché la grande distribuzione, certo, ovviamente fa il suo mestiere, che è quello di produrre profitti. Grazie Livio, grazie Livio, ora le faremo rispondere, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di olio con tutti i problemi che abbiamo sentito. Gargano, proprio una brevissima risposta. Cosa fanno le associazioni appunto per difendere questa realtà di mercato? Diciamo questi... Molte cose, una, però gliene cito le prime tre che mi vengono in, sì, mente. La legge salva olio di cui abbiamo parlato, sì, vede tra i tre soggetti che l'hanno promossa insieme a Coldiretti e Simbola proprio una. Seconda questione, tracciamo le filiere, nel senso che aiutiamo le imprese a poter certificare il loro prodotto con procedimenti sostenibili dal campo sino alla tavola, le affianchiamo per andare al mercato con tutta una serie di azioni di comunicazione, di promozione, di educazione che facciamo nei confronti dei consumatori. Poi abbiamo ovviamente le nostre sacrosante difficoltà nel momento in cui operiamo in una filiera che non procede tutta nella stessa, certo, direzione, ed è lì. Quando un buyer, l'unica cosa che guarda di un prodotto è il prezzo, secondo me non fa il suo mestiere, perché quando si indica una scorciatoia al proprio datore di lavoro per arrivare al reddito, in qualsiasi campo si operi, una scorciatoia, no, è sempre un qualcosa che non è così legittimo. Grazie Gargano, grazie Gargano. Ora abbiamo con noi Emilio Gatto, che è direttore generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari, appunto del Ministero delle Politiche Agricole. Buongiorno Gatto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Voi avete fatto un'attività, diciamo, proprio ad hoc su degli oli di oliva, avete fatto, diciamo, una campionatura e avete fatto dei controlli nel 2012 e nel 2013 sulla conformità o meno di che cosa corrispondeva l'etichetta. Mi dà un po' così in breve i risultati? Beh sì, innanzitutto vorrei dire che l'Ispettorato Controllo Qualità è l'organismo tecnico del Ministero delle Politiche Agricole che lavora in misura maggiore nel settore oleario e da un punto di vista tecnico quindi riusciamo a effettuare dei controlli molto specialistici e specifici nel settore. Noi abbiamo controllato più o meno oltre 5.000 operatori, 5.500 nel 2012 e già quest'anno ci avviciniamo ai 5.000. Il tasso di irregolarità si aggira intorno grosso modo al 9%. Quindi bassissimo. Non è basso, è un tasso, diciamo, in linea con la media dell'agroalimentare italiano, ma quello che è importante a mio avviso distinguere e la scarsa qualità degli oli in circolazione con i fenomeni fraudolenti veri e propri. Se si può dire che effettivamente c'è un livello di qualità negli scaffali della grande distribuzione degli oli mediamente, diciamo, poco elevata, ecco. Dall'altro però i fenomeni fraudolenti veri e propri, o quantomeno quello che gli organi di controllo riescono a scoprire, sono preoccupanti, sono elevati, ma non possiamo dire che la totalità degli oli che i consumatori acquistano siano frutto di operazioni fraudolente, questo credo che sia importante sottolinearlo. E come organismo di controllo noi abbiamo effettuato nel 2012 e nel 2013 importantissime attività di contrasto all'attività di frodi. Nel 2012 per esempio insieme alla Guardia di Finanza abbiamo condotto l'operazione coordinata dalla Procura di Siena che ha portato all'arresto di numerose persone. E quindi è importante questa attività, certo. Bene. Io vorrei ora, abbiamo parlato prima, abbiamo sentito che è intervenuto un radioascoltatore a parlare di mercati internazionali, abbiamo detto che il problema dell'olio, diciamo delle sofisticazioni, delle truffe, delle adulterazioni non è solamente italiano. Abbiamo con noi un giornalista americano, un giornalista che fa inchieste vere, che ha fatto un libro che si chiama Extravirginità, il sublime e scandaloso mondo dell'olio d'oliva. Bene, abbiamo con noi Tom Mueller. Mueller scrive per il New Yorker, scrive anche per il New York Times e tanti giornali americani. E devo dire che forse è l'analisi più approfondita di questo mondo. Tom, la cosa che mi ha veramente stupito è che al di là, poi torneremo magari anche su qualcosa di italiano, ma quando tu fai il capitolo degli Stati Uniti, dove dici che in California tutto l'olio che viene importato è sicuramente adulterato, ma è veramente così? Ma francamente no, l'adulterato no, assolutamente no. Diciamo che i controlli che ci sono, che il dottor Gatto ci ha spiegato poc'anzi, non esistono affatto negli Stati Uniti. L'FDA non fa più controlli sull'olio d'oliva, quindi è il far west dell'olio. Ci sono oli eccezionali che arrivano e oli molto molto bassi di qualità e addirittura adulterati. L'Università di Davis ha fatto un'analisi degli oli in supermercato che ha rivelato che qualcosa come il 70% degli extravergini non erano extravergini. Non vuol dire che fossero stati adulterati, cioè, con altri oli, ma che non corrispondevano alla qualità di extravergine. Ecco, ma Tom, tu hai fatto un'analisi a livello mondiale, cioè l'olio veramente ovunque, diciamo sotto diciamo camorre, mafie di tutti i generi, perché sembra che sia il prodotto magari più, diciamo, più truffato che c'è in giro per il mondo. Perché secondo te succede questo? Sì, è una bella domanda che mi sono sforzato per diversi anni per capire. Innanzitutto non è come il vino un solista nel bicchiere che riesci a focalizzarti tutta l'attenzione sul prodotto, è quasi sempre mischiato con altri prodotti, quindi un condimento, un nutrimento, ma fa parte di un coro, non un solista. Quindi è più facile che il consumatore non si renda conto delle qualità dell'olio. Poi il fatto è che tra gli oli vegetali è quello più prezioso, con più qualità salutistiche, più qualità nutrizionali e di flavor. E quindi costa molto di più produrre, e quando si mischia con un olio che costa molto molto meno, olio di colza, olio di soia, girasole, si può in poche parole vendere un Fiat 500 per un Ferrari. Sentiamo Mariangela, una radioascoltatrice dalla provincia di Milano. Buongiorno Mariangela. Sì, buongiorno. È interessante la vostra trasmissione, quindi io intervengo molto volentieri. Vorrei fare una considerazione. Si sono sentite denunce, si continuano a sentire denunce di queste truffe, di queste commercializzazioni di olio di scarsa qualità, però non si sentono mai i nomi, dei nomi delle marche. Io ricordo una bellissima trasmissione della signora Bartolini, Anna Bartolini se non ricordo male, che quando la RAI faceva servizio pubblico comparava con le varie marche e le varie qualità. E questo per me era un servizio per il cittadino meraviglioso. Noi andiamo nella grande distribuzione, negli scaffali, vediamo tantissime marche, tante promozioni che ti dicono da 6 euro a 2,50 euro, a 3 euro. In realtà probabilmente è un olio che già nasce con quel prezzo e quindi di conseguenza con una scarsa qualità. Ma sa, lì dovrebbero intervenire preventivamente i controlli e quindi probabilmente se... Però abbiamo capito che ci sono le leggi, ma sono collaborative. Se ne sta parlando, vuol dire che è sempre di più la scarsa qualità ci sta invadendo. Mueller, tu che hai studiato a lungo l'Italia, perché nel tuo libro sembra di leggere un... un libro giallo dentro con i boss dell'olio sparsi per l'Italia. Cosa ne pensi della situazione italiana per quanto riguarda i controlli? Ma i controlli cartacei sono eccezionali e i controlli anche sul territorio sono frequenti. Il problema è che spesso e volentieri chi fa la frode ha dei mezzi tecnici e dei chimici eccezionali che sono tre passi davanti a chi controlla. Tu hai perfettamente ragione, perché anni fa un noto produttore di olio, che tu citi prevalentemente su questo libro, un sano produttore di olio, mi diceva sempre che i truffatori sono avanti alla ricerca. E diceva che sono sempre un centimetro avanti, per cui ogni volta che si mettono dei controlli nuovi, molto approfonditi, immediatamente la truffa va oltre. La tecnica della deodorazione, per esempio, sono tante tecniche molto avanzate che adesso sono molto difficili da scoprire con i test ufficiali che ci sono. Comunque il spettatore, secondo me la domanda era buonissima: perché non si fanno i nomi? Questo certo. Innanzitutto nella nuova legge Mongello, che il dottor Gargano ne ha parlato come un passo importante per l'Italia, si faranno i nomi di chi truffa, in modo viene provato che truffa, si faranno i nomi, cioè anche nei giornali. Ma guarda, tu fai un sacco di nomi, sinceramente, che sono abbastanza attento alle cronache, che io ad esempio non conoscevo e che tu citi, che sono stati protagonisti di scandali terrificanti sul mondo dell'olio. Grazie Tom, ricordo il tuo libro Extravirginità, il sublime e scandaloso mondo dell'olio d'oliva, vale la pena di leggerlo. Sentiamo Dino da Napoli, dalla provincia di Napoli. Dino, veloce, ho 30 secondi. Ah, buongiorno. Senta, io sono rimasto un po' così contraddetto, ascoltando poco, perché credo che si sia fatto un assioma tra un prezzo dell'olio e la sua genuinità. No, si è fatto un prezzo limite dell'olio, non un poco prezzo. Cioè non è detto che un olio che costa poco sopra un certo limite non sia buono, anzi può essere molto migliore di oli che costano tanto. Si è fatto un limite di prezzo facendo degli studi di mercato, dicendo sotto questo prezzo, che è stato individuato in 3,53 dall'Uniprol, probabilmente l'olio ha qualcosa che non torna. Grazie comunque, ecco, Dino, perché è interessante. Devo passare la linea alla regia, mi spiace, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, in finale, ma devo dire che l'olio è veramente sentito dai radioascoltatori. Non so quanti SMS abbiamo, mi ci vorrebbero 8 puntate per leggerli tutti. Comunque continuiamo, abbiamo altri due ospiti interessanti e io vorrei chiedere a Piero Gonnelli, che è presidente dell'Associazione Italiana Frantoi Oleari, se è d'accordo con quanto detto da Gargano, cioè che sotto 3,50 euro diciamo un consumatore, di fronte a un prezzo di questo genere, di un extravergine, forse deve stare molto attento. Lei cosa ne pensa, Gonnelli? Io penso che Gargano sia stato molto ottimista, nel senso che secondo me 3,50 euro è il costo vivo di produzione dell'olio extravergine d'oliva nelle zone più vocate, dove diciamo i costi di produzione sono più bassi, quindi calcoliamo che poi quest'olio va confezionato, ci va messo il guadagno del rivenditore e tutto. Secondo me bisogna cominciare a parlare da 5 euro in su i prezzi degli extravergini di oliva buoni. Sentiamo Vito dalla provincia di Brindisi, rimanga con noi Gonnelli. Vito dalla provincia di Brindisi, un radioascoltatore. Buongiorno Vito. Buongiorno, volevo fare una domanda. In parte mi ha preceduto la signora di Milano. Sì. Volevo chiedere se compriamo, quando compriamo l'olio, l'extravergine al super, c'è da fidarsi dei grandi marchi, danno una certa affidabilità, o rischiamo anche di trovare un olio contraffatto? Quando troviamo le offerte dei grandi marchi, delle promozioni, anche se andiamo sotto al costo medio, c'è da fidarsi o dobbiamo dubitare anche di quello? Ma sai, le promozioni sono fatte direttamente dalla GDO, quindi non è che qui il produttore o il costo c'entri, sono i prodotti civetta molte volte per attirare altri tipi di produzione. Sui grandi marchi non capisco a che cosa lei faccia riferimento, sull'olio, perché grandissimi marchi, diciamo, in Italia non è che ce ne sia. Non so se è d'accordo Stefano Masini, che è responsabile della Coldiretti Consumi e Ambiente, che ha partecipato al rapporto sulle agromafie. Masini, lei cosa ne pensa? Ma io condivido le ansie e le preoccupazioni dei cittadini consumatori anche sui grandi marchi, che possono immettere in commercio prodotti idonei al consumo, sicuri dal punto di vista delle caratteristiche, però siccome l'olio è un alimento che evoca anche caratteristiche diverse legate a qualità, tradizioni, luoghi, geografie, colori, spesso il consumatore non risulta soddisfatto consapevolmente rispetto alle sue ambizioni di acquisto. Si tratta di miscele di origine europea, spesso magari combinati con oli di provenienza nazionale senza una trasparente informazione. Questo noi lo abbiamo visto quando è stato introdotto il parametro cosiddetto degli alchilesteri, che è un fattore che ha consentito di mettere in evidenza molte frodi. Ma sì, ce lo spieghi l'alchilesteri, perché i nostri radioascoltatori magari vogliono essere informati su questo. Certo, è un parametro di origine chimico-fisica che l'Unione Europea ha introdotto con una percentuale di 75 milligrammi per chilo di olio, e che ha consentito alla polizia giudiziaria, attraverso una serie di operazioni importanti, di procedere al sequestro, ad esempio ricordo in Toscana pochi mesi fa, di 8 milioni di bottiglie di olio decisamente sicuro, cioè conforme agli standard di legge, ma oggetto di operazioni di manipolazione, vale a dire si metteva in commercio come olio italiano oli provenienti dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Tunisia, oppure anche attraverso vere e proprie frodi si aggiustavano oli di minor qualità, vergini di sansa, di oliva, per farli diventare extravergini. E sostanzialmente queste miscele vengono sottoposte a un processo di riscaldamento termico per eliminare i difetti organolettici, e gli oli appaiono di qualità rispetto al gusto, al flavor, eccetera. Però questo parametro alto, che è indice di scarsa attenzione alla qualità, certo, rimane. Purtroppo Masini, si sa poco di questo, cioè ad esempio questo scandalo di cui parla lei è già finito nel dimenticatoio, purtroppo, succede. Gonnelli, io volevo chiedere a lei, ma è proprio un fatto di normativa per cui si può truffare così facilmente? Ma sì, sicuramente fino ad ora le norme sono state molto lassiste, nel senso che consentivano nelle maglie di poter aggirare la legge. Noi ci auguriamo che i provvedimenti che sono in approvazione, che entreranno in vigore col primo dell'anno prossimo, dell'1-1 del 14, servano a dare un'ulteriore botta a questi signori che vivono di frodi, perché con tutti i controlli sulla produzione, con la trasmissione dei dati e con la tracciabilità, diventerà molto più difficile frodare nel prossimo futuro. Ecco. Beh, speriamo. Sentiamo Giuseppe D'Alecce, l'ultimo radioascoltatore. Veloce, Giuseppe, per cortesia. Sì, buongiorno, grazie. Senta, io volevo ritornare di nuovo al discorso del prezzo. Allora, se io sono un produttore truffaldino, mi metto un prezzo all'olio superiore a 3,50 euro e praticamente cerco di non dare nell'occhio, no? voglio dire, mi sembra una trovata intelligente questa. Lei dice, insomma, uno mette un prezzo 6-7 euro, però bisogna vedere, insomma, se il marchio è conosciuto d'altro, perché se uno è il truffaldino, insomma, magari il marchio ci deve essere un momento d'attenzione. Solo che, come dicevo prima, cioè i marchi, non è che ci sia la comunicazione e l'informazione che c'è nel mondo del vino o di altri settori, diciamo, sono conosciuti sì tra i consumatori, ma pochi marchi, e quindi ognuno si fida magari del frantoio dell'amico, del tantam, oppure è costretto a prendere le marche che si trova di fronte al supermercato. Questo è un problema veramente di difficile soluzione, ma devo dire che sono pieno di sms, ma anche di telefonate. Mi spiace per Max da Roma, Giuliana da Piacenza, non posso rispondere perché il tempo è tiranno e io devo chiudere. Ringrazio, un tema importante questo, come abbiamo visto, e bisognerebbe tornarci non so quante volte. Ringrazio in redazione Anita Panizza, in assistenza Giorgio De Luca, in regia Peter Bescapè, e vi do appuntamento a sabato prossimo. Vi auguro un buonissimo weekend, ma devo fare un saluto particolare a una radioascoltatrice di 88 anni, Anna Maria di Udine. Un caro saluto, Anna Maria, e continui ad ascoltarci, e grazie. Arrivederci.